Cari amiche e cari amici, buonasera, benvenuti a Radio Alma Bruxellando anche questa sera in diretta con voi. Saluto alla regia Dani M. Buonasera a tutti. Saluto il nostro Georges Laurent. Eccoci. Saluto Fiordaliso che è accanto a me. Buonasera. E questa sera è una serata anche questa veramente ricca, ricchissima di tanti ospiti e soprattutto sono belle le tematiche di cui parleremo, entrambe diverse, estremamente diverse, però sono sicura che ne resterete veramente meravigliate e meravigliati ovviamente, sarà perché le mie due ospiti sono entrambe donne, quindi insomma, bene, allora, prima di cominciare volevo giusto correggere un'informazione che avevamo dato la settimana scorsa. Come sapete c'è questa festa dell'amicizia belgo-italiana che avrà luogo il 27 marzo, non il 25 così come annunciato precedentemente, al Collège Saint-Michel. A condurre sarà Elisabetta Gardinis, invece a cantare sarà Iva Zanicchi. Se volete avere maggiori informazioni chiamate al 02 345 26 56 Radio Alma. Scusateci per la piccola incorrettezza. Invece, prima di passare ai nostri ospiti, diciamo un paio di eventi che ci sono nella nostra agenda di Bruxellando, così insomma siamo tranquilli di non dimenticare nessuno, partendo con il Festival Off Screen, che è uno di quegli appuntamenti annuali che ormai si ripete già da tanto tempo a Bruxelles. Siamo alla quinta edizione, è cominciato proprio qualche giorno fa e fino al 25 marzo, quindi ci sono ancora due settimane per tutti coloro i quali amano il cinema, per poter in effetti ritrovare davvero vecchi film, oppure ne saranno riproposti di nuovi, come per esempio al Cinema Nova e al Cinematech. La lingua della manifestazione, in realtà ce ne sono varie, essendo qui a Bruxelles, francese, olandese e inglese, quindi sono diversi gli indirizzi come avrete potuto capire, quindi al Cinema Nova, al Cinematech, al Cinema Ritz, al Bosar, e il prezzo d'ingresso è dai 3 ai 8 euro, invece gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle 3 alle 23.30, compreso sabato e domenica. E voilà, e voilà, e voilà. Allora, questa sera una cosa interessante, una cosa che piacerà a molti, che è il concerto dei Lolomis. Che cos'è questo? Niente, è una cosa rivitalizzante al 100% naturale, darà un sacco di dinamismo e vitalità. Allora, che cos'è? Insomma, è musica serba, greca, romana e bosniaca, che donerà un sacco di vitalità, l'ho già detto, a un sacco di gente. Perché? Perché è euforica. Magari qualcuno di voi si ricorda un grande regista, Emir Kusturica, che a un certo momento ha cominciato anche a suonare con un gruppo. Ecco, insomma, se vi piace la musica che faceva Emir Kusturica, vi piacerà anche molto quello che vi daranno i Lolomis con la loro musica dei Balcani. Dove? Al Cirque de Voyageur, quindi in centro, assolutamente accessibile a tutti, per modestissima cifra di 5 euro, il 13 APS, che è oggi. Quindi insomma, per questa sera dalle 8:30 avete ancora 25 minuti di tempo, infatti, per recarvi al Cirque des Voyageurs, a Rue de Grand Carme, e andare a ascoltare i Lolomis. Io mi sa che dopo Bruxellando vado a farci un salto. E invece poi per concludere, se non sbaglio, la nostra agenda, c'è una mostra che aprirà tra qualche giorno, il 18 marzo, quindi insomma la settimana prossima, proprio sui gioielli e gli ornamenti delle culture non europee. Questa sembra essere una tradizione che appartiene un po' a tutti i continenti, quindi non è soltanto una tradizione europea, e quindi potrete veramente ammirare quelli che sono i simboli più importanti di tutta una serie di tribù, come per esempio gli indiani di Amazzonia, oppure di coloro che vivono in Papua Nuova Guinea, nella Nuova Guinea, oppure addirittura c'è qualcosa anche che arriva dalla Cina. Col sostegno dell'associazione CERA e della fondazione Roi Baudouin, la manifestazione ha un prezzo abbastanza interessante, quindi tra i 5 e 4,50 euro, e poi la tariffa gratuita al Museo del Cinquantenario, quindi al Parco del Cinquantenario a Bruxelles. Martedì, venerdì, l'orario di apertura 9:30-17, sabato e domenica invece 10:17. La mostra durerà 6 mesi fino al prossimo 28 ottobre 2012. Come dicevamo, quindi apriamo la nostra serata. Sono molto contenta perché parliamo di un tema del quale credo, e poi magari George si ricorda meglio di me, ma non credo ne abbiamo mai parlato a Brussellando, quindi c'è sempre una prima volta. E con noi ospite in studio Rossella Paschi, la quale ha scritto un libro testimonianza, oserei dire, su un periodo abbastanza particolare che riguarda non solo la nostra storia, la storia italiana, ma anche quella europea, anzi, insomma, è una storia comune, collettiva, che appartiene ormai a tutti quanti noi. Rossella ha scritto di quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale al popolo ebraico. Lo ha scritto sulla base di una sua esperienza personale, in particolare quella del padre, e vi assicuro che per quanti, insomma, non avessero mai letto nulla al riguardo e volessero veramente scoprire un'altra storia, volessero scoprire un'altra interpretazione o addirittura leggere i fatti in maniera totalmente diversa per scoprire quelli che sono i non protagonisti di una storia che era più grande di loro, allora veramente vi consiglio di leggere Il segretario di Nino. Rossella, benvenuta. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato. Noi siamo veramente felici di averti qui con noi e ti ringraziamo dell'invito, insomma di aver accettato l'invito, scusami. Vedi l'emozione, gioca brutti scherzi. Allora, raccontaci un po' di te, così poi insomma entriamo nel vivo, nel dettaglio del tuo romanzo. Sono nata a Trieste il 29 dicembre 1950. E chi se ne frega, dirà qualcuno. No, perché questo è importante. Penso che pochi si ricorderanno, e fra i giovani forse nessuno lo sa, che nel 1950 Trieste non era più Italia e non era di nuovo Italia. Si trovava in una specie di terreno grigio, diciamo. Di limbo. Di limbo. Sì, una specie di limbo, terra di nessuno. Ecco. Zona grigia, che non era né Italia né Jugoslavia, e era previsto che diventasse il territorio libero di Trieste ed era sotto amministrazione anglo-americana. Mi ricordo ancora che si passava veramente il confine venendo dall'Italia, da Udine o anche da Monfalcone, che era praticamente l'ultima comune italiano. Si passava un confine vero e proprio, ci chiedevano quando passavamo in macchina se avevamo sigarette o altre cose da dichiarare. E appena nell'ottobre del 1954 Trieste è ridiventata veramente Italia. Ecco, questo per spiegare perché ho precisato la mia data di nascita. Dopodiché ho vissuto a Trieste fino a 26 anni, e a 26 anni sono venuta qui a Bruxelles a fare l'interprete alla Commissione europea. Non perché desiderassi fare la funzionaria europea, non perché avessi una particolare così predilizione per il mestiere di interprete, tantomeno perché volevo venire a Bruxelles, dove il clima è tale per cui dico che nella prossima vita non varcherò certamente le Alpi. Semplicemente quello si era dimostrato un modo pratico, facile, lecito e addirittura onorevole di scappare di casa, di lasciare la mamma e la terra natia, appunto la famosa bellissima Trieste. E adesso sono qua da 35 anni, ormai sono in pensione anticipata e resto a Bruxelles. Tutti mi chiedono perché non torno in Italia e insomma, strada facendo poi ci sono state altre ragioni che probabilmente ti legano anche a Bruxelles. Sì. Già. E quando nasce invece la tua passione per la scrittura? Allora, quando ero piccola, alle elementari dicevano che sarei stata pittrice, poi verso la fine delle elementari scultrice, poi alle medie all'improvviso sono diventata scrittrice, forse non potrei dire perché o quando, penso forse in seguito alla prima delusione amorosa. Comunque a scuola ero brava ed eccellevo in italiano e disegno. Infatti, quando pensavo di seguire una carriera artistica, ho sempre oscillato fra la pittura e la scrittura. Comunque dichiaravo sempre voglio scrivere, però non scrivevo. E mio padre mi diceva tu intanto scrivi che ti trovo io chi ti pubblica, però io continuavo a dire voglio scrivere, ma non scrivevo, a parte i temi scolastici in cui prendevo anche 10. E E poi sì, vabbè, ho scritto soprattutto poesie durante l'adolescenza. Ci sono opere letterarie allora che ti hanno particolarmente influenzato la tua scrittura e la tua vita, allora? Beh, la mia scrittura non saprei, perché ovviamente tutto quello che si legge ha un'influenza su quello che poi uno scrive, quindi non saprei, non è che posso dire che mi ispiro a uno scrittore piuttosto che a un altro. Però ci sono delle opere che hanno senz'altro determinato la mia vita o il mio modo di vedere la vita. E uno scrittore che è stato per me molto importante è Stendhal, che mi ha instillato il desiderio di vivere la passione amorosa. Ecco, non avrei potuto vivere tutta la vita senza provare la passione amorosa, sarebbe stata veramente una disgrazia. Però è una cosa che mi ha instillato lui, penso, leggendo le storie di queste donne. Anche se non sono mai stata d'accordo con l'abbinamento Eros e Thanatos, perché per me l'amore si identifica con la vita e non con la morte, quindi sono d'accordo fino a un certo punto. Una velata critica al romanticismo. Sì, certo, sicuramente non è ammessa. Io non riesco, assolutamente. Io sì, non riesco a identificarmi con una visione dell'amore che porta alla morte. Per definizione l'amore deve portare alla vita, non alla morte, anche se è forte, passionale, però quella era la sublimazione massima, il romanticismo era il Thanatos, cioè la morte, perché era però la possibilità di vivere l'amore in una fase terrena, però assolutamente d'accordo. Anche per me l'Eros non deve portare al Thanatos, se no non andiamo bene. Volevo solo dire questo, perché questo è stato secondo me determinante per la mia esistenza: andare a teatro col fidanzato di allora a vedere La casa di bambola di Ibsen, stavo ancora a Trieste. Per me è stata una rivelazione. Quando ho visto Casa di bambola di Ibsen, io mi sono identificata con Nora e ho detto: no, io Nora non voglio diventare. E ho lasciato il fidanzato, ho finito gli studi e sono scappata qui a Bruxelles. Insomma, ancora più determinante Ibsen di Stendhal. È stato un cambiamento repentino. Vabbè, ci sono letture che effettivamente lasciano il segno in un modo o in un altro, scrivendo, agendo o magari assumendo degli atteggiamenti. La scrittura, tutto sommato, riesce ad avere comunque sfumature abbastanza importanti. E che sfumature? E tu che cosa hai scritto prima di arrivare, quindi? Perché tu hai scritto varie cose prima di occuparti di questo romanzo, hai scritto varie novelle, varie storie, racconti. Sì, insomma, dico sempre che io non scrivo, scribacchio. Comunque, ho scribacchiato in particolare due commedie, di cui una ha vinto anche un premio a Trieste, è stata messa in scena a Trieste, un'altra è stata messa in scena qua a Bruxelles, molti anni fa, con molto successo. Il pienone per due serie di fila. Ma complimenti. Purtroppo non c'era ancora, di questo ne sono certa. No. E poi, sì, vabbè, ho scritto alcuni raccontini e vabbè, poi ho scritto anche altre cose che non sono state pubblicate, non ho neanche cercato di pubblicare. E poi ho cominciato a scrivere questa storia. Mi è stato rinfacciato una volta da una persona a Trieste che si occupa di libri di essere troppo autobiografica. Purtroppo ho questo difetto. Beh, saresti pure in buona compagnia, quindi. Mamma mia. e quindi perché un libro sul tuo padre? Appunto, avendo questo grave difetto di essere autobiografica, invece di cercare di inventare una storia, ho scritto questa storia a cui mio padre ci teneva molto, la chiamava Le mie vicende, e di lui appunto durante la guerra, ebreo, scappato a Milano. Adesso non è che voglio anticipare tutta la storia che è descritta nel libro, perché non avrebbe senso. Ma tante volte mi sono detta: ma perché inventare storie se sono così interessanti le storie che viviamo noi, che abbiamo vissuto noi? Non so se è una forma di pigrizia o forse addirittura di incapacità, cioè non essendo in grado di inventare una storia prendo una che già so. Comunque quella di mio padre mi pareva interessante per quello che rappresenta dal punto di vista storico, e comunque lui era una persona molto interessante anche dal punto di vista umano, quindi io cerco anche di descrivere questa persona di mio padre come appunto essere umano, non solo come persona che ha vissuto quella data esperienza durante la guerra. Assolutamente. Quindi come padre, come cittadino, perché poi lui è rimasto impegnato dal punto di vista politico, civile, diciamo civico piuttosto, fino alla fine, insomma, intellettuale, culturale, ecco. E come mai ha deciso di intitolarlo il segretario di Nino? Il segretario di Nino perché lui dunque a Milano è entrato in un'organizzazione della resistenza che faceva scappare in Svizzera i prigionieri alleati che erano riusciti a evadere dai campi, e il suo capo, che era il capo di questa organizzazione, si chiamava Giuseppe detto Nino, e lui fungeva proprio da segretario in un certo senso di questo Nino, donde il titolo il segretario di Nino. Inoltre una cosa a cui lui ci teneva moltissimo era che a un certo punto Radio Londra trasmise per 3 giorni di fila un messaggio che lo riguardava e che diceva che anche lui alla fine era riuscito a rifugiarsi in Svizzera, e il messaggio appunto suonava: il segretario di Nino è arrivato bene. Ecco, lui ci teneva molto a questa cosa di Radio Londra, così come ci ha sempre tenuto moltissimo a raccontare che ha fatto la resistenza senza mai impugnare un'arma. In realtà, appunto, come tu dicevi prima, non è un libro individuale, anzi, piuttosto un romanzo corale. Si intrecciano e narrano più storie, il cui è Deus Ex Machina, lo dicevamo anche prima, è molto più grande di loro. Quindi, da un lato, insomma, quello che accadeva realmente, perché parliamo della fine della Seconda Guerra Mondiale, e in Italia probabilmente la parentesi è stata delle più spiacevoli, non che altrove sia andata meglio, però. E dall'altro, invece, c'era il lato umano, se vogliamo, di questo aspetto. Quindi, c'erano persone che aiutavano concretamente gli ebrei, ma chiamarli ebrei a volte, insomma, mi viene un po' da pensare, no? Anche a me, insomma, c'era questo aiuto reciproco a chi capiva che, al di là di una definizione di una nazionalità, c'erano delle persone, c'erano dei volti, c'erano delle capacità, c'erano delle professionalità che ovviamente andavano conservato. Quante questi due aspetti, poi correggimi se sbaglio, questa è una mia interpretazione, sono stati importanti per te come fili conduttori del romanzo? Beh, non saprei, perché raccontare la storia è venuta così come una cosa naturale, seguendo il filo della vicenda di mio padre, che conoscevo perché l'ha raccontata tante volte, poi mi sono basata su scritti, su interviste da lui rilasciate. E poi un altro incentivo forse a scrivere questo libro è stata la raccolta di documenti e di lettere anche che ho trovato nei bauli alla morte dei miei genitori, tutta una serie di documenti di cui ignoravo l'esistenza, in cui appunto emergono anche i rapporti umani prima della guerra e dopo la guerra soprattutto. Uh-huh. Durante la guerra certo ci sono documenti, ma sono quelli che concretamente riguardano queste vicende, che troviamo anche in parte in libri di storia, in riviste che si occupano di storia e via dicendo. E, insomma, diciamo che il ritrovare questi documenti storici, in parte umani, è stato determinante nella stesura di questo libro. Il libro è veramente, ci sono tante storie, tanti episodi, tanti in particolare, insomma, anche abbastanza simpatici. C'è un episodio tra questi che vorresti raccontare? È uno che mi viene in mente adesso, sì, che è molto triestino, è la storia di mio nonno, che tra parentesi si chiamava Nino pure lui, che è nato a Trieste nel 1901, quindi sotto l'impero asburgico, e lui è rimasto un fedele suddito dell'impero austro-ungarico fino alla morte, tant'è che c'è una lettera che riporto nel libro di lui a Otto von Habsburg, in quel momento deputato al Parlamento europeo, di cui lui aveva appena letto il libro su Carlo V. E si era talmente entusiasmato per questo libro da mandargli una lettera, naturalmente scritta in tedesco, visto che lui era nato comunque bilingue, aveva fatto le scuole in tedesco e comunque era bilingue, Dunque, scritta in tedesco a Otto von Habsburg per congratularsi con lui per questo libro e per esprimere per l'ennesima volta la sua dedizione alla Casa d'Austria, tant'è che firma questa lettera il suo fedele suddito Anton Wellert. E Otto von Habsburg gli rispose di pugno, gli mandò una lettera scritta da lui per ringraziarlo e per ringraziarlo anche di questa fedeltà alla Casa d'Austria, che forse non so quanti abbiano mantenuto a quegli anni, o perché comunque questa lettera è stata scritta nel 96. Nel 96, insomma. Infatti. Un altro dei protagonisti invece è Trieste. Tu hai lasciato Trieste e l'hai raccontato pure tu per poi trasferirti a Bruxelles. Ma quanto ti senti triestina? E se dovessi dare una definizione geografica di te stessa, come ameresti definirti? Ecco, io non mi sento una fedele suddita degli Asburgo come mio nonno, però è vero che Trieste è un po' rimasta in questo tipo di mentalità e molti triestini appunto si sentono ancora tutto sommato, se non fedeli sudditi, influenzati da quella che era stata il dominio asburgico. Io sono sicuramente una triestina pura, anche perché nata e vissuta a Trieste da genitori triestini, cioè una vera mula triestina in tutti i sensi, sportiva, abituata a vivere all'aria aperta, espansiva e via dicendo. Se dovessi dare una definizione geografica di me stessa, e questa domanda mi piace molto, perché posso finalmente dire che non sono per niente mitteleuropea, bensì io sono balcanico-mediterranea. Ecco. Oh, e questa definizione ci piace tantissimo, ed era ora che finalmente qualcuno la dicesse, così superiamo anche concetti, insomma, noti, stranoti e magari anche abusati. E a proposito di questa definizione, invece, torniamo al libro di tuo padre, qual è l'eredità più grande che credi tuo padre ti abbia lasciato? Ma penso che siano la tolleranza e il rispetto per gli altri, anche se lui in fondo si dichiarava tollerante e dopo, quando gli faceva comodo, esprimeva dei giudizi che non sembravano affatto tolleranti. Beh, questo capita a tutti, credo, sì, è naturale. Insomma, nessuno è perfetto. Assolutamente. E poi anche il senso dell'umorismo, il fatto di affrontare la vita col senso dell'umorismo, che è comunque una caratteristica ebraica e triestina contemporaneamente. Quali sono i tuoi progetti futuri? Progetti di vita o di scrittura? Di scrittura. Allora, di scrittura. Se possiamo anticiparli, eh? Sì, sì, certo. Se no, perché anzi sono gli unici progetti che ho anche di vita, quindi sa pure l'età. Allora, sto scrivendo un libro che avevo incominciato a scrivere già tempo fa, che ho interrotto, un libro, insomma, un testo, diciamo, che ho interrotto per riprendere in mano questo di mio padre quando ho trovato finalmente un editore, però dico che lo sto scrivendo, ma non di questo non voglio dire di cosa parlo. No, assolutamente, ecco. Capiamo e rispettiamo questa la tua... Questa è una cosa un po' più... La tua perfetta. Non lontana dalla realtà, ma non è più così racconto di vita vissuta, ecco. E c'ho nel cassetto una storia surreale, mm-hmm, che ho scritto dopo che mi hanno rifacciato di essere troppo autobiografica. Ah, okay, per questo ho scritto una novella surreale, che però poi è rimasta nel cassetto, ma la vorrei riprendere perché è divertente. E poi c'è una cosa che ci terrei, però non so se riuscirò a farla, tradurre in italiano due testi greci. Uno è un testo considerato classico dai greci, L'assassina di Papa Diamantis, scritto a cavallo fra 800 e 900, credo, adesso potrei sbagliare la data esatta, ma insomma giù di lì, ed è secondo me il primo testo femminista della letteratura, almeno il primo che conosco io, pur essendo scritto da un uomo. Però c'è un ostacolo, secondo la mia professoressa di greco, che ho visto anche oggi, perché questo libro è scritto in katarevusa, cioè in greco più aulico, che non si usa più tanto, e io so il greco moderno, ma il demotico, quello che parlano e in cui ormai scrivono tutti, e katareuvos lo so poco. E io pensavo di poterlo tradurre dalla traduzione in greco, ma lei me lo sconsiglia. Proibisce. No, non me lo sconsiglia, me lo proibisce. Ancora peggio. L'altro invece per fortuna è scritto in demotico e quindi se riuscissi a tradurlo. Qual è il secondo? A farlo, il secondo si chiama Il notaio di Nikos Vassiliadis. In Grecia non mi risulta che abbia avuto tanto successo, però mio marito l'ha scovato qua da Tropisme in francese, l'abbiamo letto in francese, dopo io quando sapevo un po' meglio il greco, che ho studiato solo negli ultimi anni, l'ho letto anche in greco, l'ho regalato a destramanca a tutti quelli che pensavo fossero in grado di leggerlo, e lo troviamo, mio marito ed io, fantastico, e io trovo un peccato che il popolo italiano sia privato di una simile novella. E questo mi sembra essere un ottimo auspicio per il futuro. E invece, visto che ho capito che insomma, questo è un argomento che ti piace molto, insomma, altro che timidezza, presenterai il tuo libro qui a Bruxelles prossimamente, così insomma verremo ad ascoltarti anche dal vivo? Certamente, possiamo già annunciare, perché c'è già una data, il 19 aprile, in Rue du Commerce 49, nella sede dell'ufficio di collegamento del Friuli Venezia Giulia. Ci sarà la presentazione del libro, seguita da un drink. E il libro è in vendita e verrà messo in vendita, credo anche quella sera, dalla Piola Libri. Molto bene. Abbiamo detto quando, la data? 19 aprile, perfetto. Credo. Così ripetiamo, alle ore 19.30 mi no, pare. No, 19. Alle 19. Quindi penso. Ripetiamo, ore 19. Del 19. Del 19 aprile, ecco, insomma, c'è stato un... E quindi presso la sede del... Ufficio di collegamento del Friuli Venezia Giulia in Rue du Commerce 49. Che è conosciuto, insomma. Per quanti volessero saperne di più, insomma, potete pure consultare brussellando@gmail.com e avranno maggiori notizie. Rossella, prima, il tempo prima di finire, perché devo assolutamente fare questa domanda, ed è questa, che quando ci vedremo a 19 aprile 19? Vorrei che mi parlassi della cultura balcanico-mediterranea e della posizione di Trieste, che è mite europea ma è anche anche un porto. Ma la risposta a quel giorno. Grazie. Meno male che vengo avvertita, così potrò prepararmi e studiare, perché di Trieste qualcosa so, ma di cultura balcanico-mediterranea abbiamo poco. La mia è una posizione meramente sentimentale, non culturale. Quindi già avrei una domanda dal pubblico, insomma, quindi questo permetterà di alimentare sicuramente... meno male che me lo dice oggi, così mi preparo. Così ci sarà qualche giorno per prepararti. Siamo alla fine, perché ahimè il tempo in radio è veramente tiranno. C'è qualcuno che vorresti salutare dai microfoni di Brussellando? Certamente tutti quelli che conosco, in modo particolare tutti quelli che mi vogliono bene, perché l'affetto è la cosa più importante nella vita. Grazie. Rossella, noi ti ringraziamo, è stato veramente, insomma, siamo stati veramente entusiasti di ascoltarti. Ricordiamo quindi Il segretario di Nino, scritto da Rossella Paschi, edito da Arte Rigere, di pronunciato Varese. Bene? Sì. Di Varese. Potete trovarlo facilmente proprio presso la libreria Piola, dove più copie sono a vostra disposizione. Cari amici, eccoci qui nuovamente, Brussellando questa sera, questa puntata estremamente ricca. L'avevamo detto all'inizio, avremmo parlato di due cose estremamente diverse e ne avevamo parlato anche la settimana scorsa, penso avevamo fatto una piccola sintesi di quello che era accaduto durante la fiera del libro, e con grande sorpresa anche da parte nostra abbiamo uno degli ospiti già, insomma, che avevamo intervistato alla fiera del libro, che è Simonetta Agnello Hornby, e la quale ha scritto proprio recentemente La cucina del buon gusto. Lei si era già cimentata in un'opera, insomma, che ricordava quelli che potevano essere diciamo la trattatistica culinaria, perché aveva scritto Un filo d'oro nel 2011, edito da Sellerio, e questa volta ritorna proprio con un manuale, io oserei dire, veramente completo, non solo di Galateo ma anche del gusto. Come potete ricordare, Simonetta è stata, insomma, è stata lanciata da un suo romanzo, La Menuara, nel 2002, La zia Marchesa, Bocca murata e Vento scomposto nel 2009 con Feltrinelli. Questo suo libro invece lo ha scritto quindi con Maria Rosario Lazzati, la quale invece è milanese e racconta la sua esperienza culinaria sia in famiglia sia come insegnante di cucina. Maria Rosario suggerisce un nuovo modo di fare la spesa e piccoli trucchi del mestiere, ricorda la celebrazione dei 100 anni di una anziana zia 30 anni dopo la sua morte, quindi attraverso la riproposta del suo menù delle feste. Quindi noi ancora non abbiamo cenato, quindi non vogliatecene se stuzzichiamo il vostro così come il nostro appetito, però insomma è sicuramente un buon modo per ripercorrere tutta una serie di abitudini, e Simonetta poi ha introdotto una serie di novità anche nel suo libro. Tra l'altro colui che l'ha ispirata è Brillat Savarin, quindi insomma un grande, insomma, non solo in tutto ciò che è l'arte della cucina, ma anche insomma un personaggio molto importante della cultura francese. Simonetta, come sapete, vive ormai a Londra da anni, è praticamente ormai inglese d'adozione, ha pure una bella storia, diciamo, di integrazione europea che probabilmente vorrà condividere anche con noi. Simonetta, buongiorno. Buonasera. Ah, benvenuta a Brussellando, Radio Alma. Grazie mille. Simonetta, io sono veramente molto, molto colpita prima di tutto dalla tua storia personale, dal tuo processo di integrazione in Inghilterra. Radio Alma Brussellando è veramente un esperimento che ha fatto della multiculturalità, dell'interculturalità e del multilinguismo uno dei suoi fari, insomma un momento importante di crescita per tutti. Quanto lo è stato anche per te? Molto, perché io sono andata in Inghilterra a 17 anni per imparare la lingua. Immediatamente mi sono sentita a mio agio, non ho mai capito perché, c'era freddo, si mangiava male, avevo pochi denari, però mi sentivo bene. E da allora onestamente ho sempre avuto un atteggiamento con l'Inghilterra di grande comprensione, anche se ho avuto i miei problemi ovviamente, per cui mi sono integrata presto. Ebbene, e mi sento anche inglese. E tra l'altro tu sei stata avvocato, ora non so se già sei insomma in pensione oppure no, però comunque siete stati i primi a Londra ad occuparvi di casi di violenza all'interno della famiglia. Quindi se... Non è esatto, siamo stati i primi a creare un ufficio totalmente separato e dedicato ai casi di violenza. I casi di violenza sono in tutta l'Inghilterra, da molto prima di quanto ci fosse il mio studio, e io continuo a lavorare ancora per quest'anno. Noi abbiamo creato invece una sezione dove arrivava la cosiddetta vittima, uomo o donna, uh-huh. E se arrivavano entro le 10 di mattina, alle 2, grazie alla collaborazione, a un protocollo che abbiamo creato noi coi tribunali, coi servizi sociali, coi medici, eravamo al tribunale. Però insomma penso che sia stata un'esperienza molto importante. Tra l'altro, già parliamo di scrittura, nel 1997 avete pubblicato un libro, The Caribbean Children's Law Project, che era il risultato. Sì. Esatto, quindi potresti raccontarci un po' di questo tuo progetto? Sì, ne sono molto fiera. Dunque, la maggior parte dei miei clienti erano stranieri, molti, molti caraibici. E quando per esempio si poteva mandare un bambino dalla nonna in Giamaica, bisognava avere delle informazioni sul diritto della Giamaica, se questa donna avesse avuto la potestà genitoriale per quel periodo, chi avrebbe mantenuto il bambino, eccetera. E a volte aspettavamo mesi perché non c'erano le strutture né le informazioni per sapere queste cose fondamentali. E mi è sembrata un'ingiustizia, soprattutto quando ho avuto un bambino che languiva in una casa famiglia, mentre invece c'era una prozia pronta ad averlo. E appena ho avuto dei soldi, noi eravamo pagati dallo Stato, lo siamo tuttora, per cui i guadagni non sono grandi, appena ho avuto dei soldi ho detto lo faccio, e ho mandato 4 dei miei colleghi in 4 paesi dei Caraibi a fare delle ricerche. Dopodiché abbiamo pubblicato questo libro anche con l'aiuto della Gulbenkian, una fondazione, ed è tuttora l'unico lavoro di questo tipo. E poi insomma nel tempo ti sei dedicata effettivamente alla scrittura, hai cominciato già nel 2002 e poi insomma sei stata abbastanza, oserei dire, proficua, perché hai scritto tanto e ti eri già cimentata in qualcosa relativo proprio all'arte culinaria con un filo d'olio nel 2011. Quindi questa sera insomma ci piacerebbe parlare con te della tua ultima fatica, La cucina del buon gusto, che hai scritto con Maria Rosario Lazzati. Com'è nata la vostra collaborazione? Ma dunque, Maria Rosario è una mia cara amica e lei ha una scuola di cucina, è un emigrante come me, si è immessa nel mondo inglese tramite il cibo. E da tempo parlavamo io degli effetti positivi del cucinare, del mangiare coi figli sulle mie clienti, e lei degli effetti positivi sulle sue clienti, che erano donne della borghesia o dell'alta borghesia che facevano dei corsi di cucina. Per cui diciamo, io parlavo della gente povera, lei della gente ricca, ma il risultato è lo stesso, miglioravano come vita e come persone cucinando. E abbiamo deciso di scrivere un libro insieme. Lei ha fatto la parte della cucina ovviamente, io ho scritto soprattutto su Briasa Varenne, una grande scoperta dell'anno scorso, un grande pensatore, giurista e nonché amante della cucina, un gastronomo che nel 1825 ha scritto La fisiologia du goût, la fisiologia del gusto, che è tuttora in stampato ed è un capolavoro. Oh, e in effetti è vero, Savarin verso la fine del Settecento parlò di questa fisiologia del gusto, meditazione di gastronomia trascendente. Volevo leggere un estratto del tuo libro, perché tu dici ad un certo punto: alla consapevolezza di quello che si cucina, del perché lo si cucina e per chi, da godimento, dalla scelta degli ingredienti alla preparazione della tavola, dell'abbinamento delle portate all'accompagnamento dei vini, cucinare ci fa sentire umani. Eppure però, sì, scusa, vai, forse già... È vero, non solo ci fa sentire umani, ci ha fatto diventare umani. Cioè l'uomo sapiens è diventato sapiens sapiens, non mi chiedete perché l'hanno ripetuto due volte, comunque è diventato uomo sociale grazie al mangiare e dunque al cucinare. È straordinaria come tutta la nostra vita sia totalmente scandita dal cibo. Si fanno le sommosse per le carestie o si fanno le guerre per possedere fonte di cibo. Mangiare è tutto, è nutrimento del corpo, dell'anima e come dice Savarin, procreare. Addirittura Savarin aggiunge ai cinque sensi un sesto senso che lui chiama le je ne sais, cioè il senso del stare all'amore con una pancia piena ma non troppo, avendo bevuto un poco ma non troppo, e dunque continuare la nostra specie, che è lo scopo diciamo della nostra vita. Tra l'altro c'è un elemento molto interessante, perché tu riesci poi a mettere insieme da un lato diciamo la filosofia del buon gusto francese e dall'altra l'arte del convivio tipica del sud Italia, e in particolare poi quella siciliana. Io parlo dei miei ricordi, io credo che l'arte del convivio non sia tipica siciliana, forse è tipica di tutti i popoli basati su una famiglia che è il clan, che è il centro della loro vita. Penso che nel sud della Francia, Marsiglia sia lo stesso preciso, forse anche in Normandia. In realtà il mangiare, il parlare, il bisticciarsi, il volersi bene a tavola ci rende sempre di più umani e rende la vita più piacevole. Savarin a un certo punto dice che le coppie che non dividono la camera da letto ma dividono la tavola sono delle coppie che hanno un'intesa e riescono a vivere bene. Che bella frase! Beh, effettivamente potrebbe essere una soluzione per quanti da qualche parte. Ma molti separati in casa, se mangiassero insieme forse non sarebbero separati a lungo. Potremmo chiedere ai tribunali di imporre ai separati in casa di mangiare insieme una volta al giorno. Non solo, ma poi tra i giuramenti dei matrimoni, anziché giuro di amarti, servirti, onorarti, giuro di mangiare con te. Bellissimo. Effettivamente potrebbe essere una soluzione, perché no? E nel però è vero, mia madre racconta, lei addirittura nella sua prima notte di nozze, che papà andò a cambiarsi e spuntò con un pigiama giallo canarino e lei si mise a ridere. E allora mamma si sedette su un lato del letto e non voleva parlare con mamma. Povera mamma guardò nella sua valigia e nonna le aveva dato dei cioccolatini. Se ne prese uno e gliene offrì uno e papà disse no. Dopodiché mise la scatola tra di loro sul letto, ognuno si dava le spalle, e mangia ora, le mani si incontrarono e non so più che è successo del famoso pigiama di papà, ma poi siamo nate noi. Quindi insomma il resto magari è pure prevedibile. E invece c'era pure un'altra mia curiosità, come avete deciso poi di dividere le parti tra te e Maria Rosario? Cioè è venuto naturale, insomma ciascuno poi ha contribuito in base a quello che sapeva di più? Dunque, è una storia lunghissima che posso spiegare soltanto in 2 minuti. Noi originariamente volevamo scrivere un libro molto, molto diverso, basato sulla storia di una mia cliente che appunto ha imparato ad amare la madre, ad esserle amata cucinando. E questa storia però non andava con quello che aveva la Feltrinelli in testa. Loro volevano un libro non a romanzo, ma più sulla cucina. E allora io ho avuto questa idea di Bria Savarin e ci siamo divise il lavoro, nel senso che lei ha fatto i menù completamente e io l'ho aiutata e lei ha aiutato me nello scrivere, nel pensare, nel ragionare su quello che volevamo fare. E poi noi abbiamo avuto la fortuna di Alberto Rollo, che è il mio editor alla Feltrinelli, che è un grande editor, ed è riuscito, dopo aver avuto da me una dritta che volevo una parte di lei e una parte mia, è riuscito a unire le due parti mettendo un pezzo mio da lei, un pezzo suo da me ad inserti, e a fare questo straordinario indice che è un capolavoro dell'editoria del buon gusto. Questo veramente lo posso confermare, ma quindi se volessimo dare una ricetta così veloce ai nostri amici, coloro che magari ancora sono indecisi, non sanno cosa preparare, insomma qui siamo ancora intorno ad un'ora di cena, siamo a Bruxelles, siamo pure un'ora in avanti rispetto a Londra, un suggerimento veloce? Una qualunque, la minestra di orzo di Maria Rosario. Maria Rosario è straordinaria sulle minestre. Questo è un libro con ricette milanesi o toscane, non sono siciliane, la mia amica è del nord. Ma le minestre di Maria Rosario sono le più buone che ho mai preso. Però, questo mi sembra essere un ottimo suggerimento. Simonetta. Io ho una curiosità prima di chiudere. La curiosità è, ma poi le due clienti, le tue, quelle della coscrittrice, si sono mai incontrate? No. Le mie clienti non si sono mai incontrate con nessuno tranne che con me poi al tribunale. E le clienti di Maria Rosario non le conosco. Noi siamo amiche noi due, però i nostri lavori sono diversi. Per cui la risposta è no, non ho mai avuto il piacere di conoscere una sua cliente e lei quello di conoscere le mie. Magari forse bisognerebbe invitarle a tavola. Difficile, si potrebbe fare, sarebbe una bella idea avere le nostre clienti insieme, ma credo che non avrebbero un dialogo, a meno che il cibo non fa questo miracolo pure. Chissà, io credo che il cibo come facilitatore possa essere un'ulteriore soluzione. Ma non c'è dubbio, ripeto, abbiamo perso non solo il piacere di mangiare, che lo abbiamo ancora, il piacere di cucinare. Questo è vero, sì. Preparare in anticipo, il piacere di mettere a mollo i fagioli e fare la minestra domani, che bello. Daniele MRG, il nostro regista, adora cucinare, quindi insomma lui condivide questo piacere. Simonetta, piacere. Quali sono i tuoi progetti futuri? Stai già lavorando a qualcos'altro? Allora, ho quasi finito il filatorio numero 2, che sarà diciamo la sequela del filatorio numero 1, cioè dai 10 ai 15 anni per me. E questo sarà con Sellerio e con le ricette di mia sorella, che saranno soprattutto di dolci. I dolci straordinari delle monache che sono nel libretto della mia nonna, di mia madre e di zia Teresa. Per cui questo è un libro tutto Sicilia, è tutto della nostra cucina, pesante, sarà però è buona. E poi devo fare un romanzo per Feltrinelli che sarà ispirato a mia nonna, per cui siamo tutta in famiglia quest'anno. Sono storie che non hanno bisogno di essere inventate, perché sono storie già vissute, insomma, è davvero un piacere poi condividerle e raccontarle. Simonetta, in radio il tempo è veramente tiranno, c'è qualcuno che vorresti salutare dai nostri microfoni? Ma io voglio salutare i miei lettori in generale, sempre, perché non li conosco, sarebbe bello vederli, sapere cosa pensano, anche critiche. Uno scrive per un lettore immaginario E forse tra le cose più belle di essere una scrittrice è quando uno va alle presentazioni e ripeto anche le critiche, anzi le critiche mi fanno migliorare, io ancora devo migliorare, per cui saluterei tutti i miei lettori. Ah, e noi ovviamente siamo tra i tuoi lettori, quindi ci sentiamo onorati di questo tuo saluto e ci uniamo ai tuoi saluti per tutti i lettori che abbiamo scoperto che tu hai anche qui a Bruxelles, quindi insomma ce ne sono tanti, li abbiamo visti poi la settimana scorsa, quindi insomma... Simonetta, noi ti ringraziamo di essere intervenuta questa sera e magari quando saranno pronti sia il filo d'olio numero 2, insomma, e tutti gli altri tuoi romanzi, noi saremo ben lieti di darti uno spazio qui a Bruxellando. Perfetto, grazie mille. Buona serata. Ciao. Arrivederci. A prestissimo. Serata, arrivederci, grazie. Allora, un pizzico di lì, qualche goccia di bra. Un'idea di Ingo e poi alla fine il tutto in lo per almeno 20 minuti e poi alla fine atterretto in un perfetto librangolo. Che bello! Allora, abbiamo già mangiato per stasera. Ah, voi. Così abbiamo già mangiato per stasera. Quindi librangolo, per quelli che non avrebbero capito questa ricetta strana. Comunque, per stasera io vi ho portato, diciamo, un altro pezzo del ponticello fra la comunità Italia e la comunità locale, perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo degli, fra virgolette, extraterrestri che stanno vivendo qua in Belgio, però sinceramente secondo me abbiamo poca idea sia della letteratura seria, sia della letteratura un po' meno seria che di cui possiamo godere su queste terre, e non è che ce ne possiamo godere soltanto in francese o soltanto in fiammingo, ma ne possiamo godere anche in italiano. Se per esempio ci sono anche dei gialli che sono diventati diciamo riconosciuti, apprezzati dal pubblico italiano, e uno di questi è una celebrità locale, scritto da una celebrità locale che si chiama Peter Aspe, che è un fiammingo che scrive dei gialli, di cui protagonista è generalmente penso sia ispettore Peter Van In, e sua moglie Hannelore, che ambedue lavorano un po' nel campo del crimine. Cioè, non sono necessariamente, cioè, Peter Van In è comunque un personaggio, potremmo dirlo così, cioè, ama non rispettare le regole a cui non siamo abituati, quindi si deve leggere questo libro anche per questo, per realizzare come funziona questa cosa delle regole. Le regole li rispettiamo, cerchiamo di rispettarli in ogni occasione, eccetto quando no. E allora no, però. Dopo no, allora specialmente quando si cerca di salvare qualcuno, quando si cerca di trovare delle scorciatoie per arrivare prima alla giustizia, può arrivare, almeno in questo caso può arrivare, che uno tagli queste lunghe vie delle regole. E poi il libro cioè io ne ho letto soltanto uno, quindi non posso aprire la bocca tanto grande, magari nella stanza ci sono altri che hanno letto molto di più, e io vi sto parlando di un libro che si chiama Maschere della Notte, in cui si tratta di un gruppo di persone che includono dei ricchi, dei politici, anche poliziotti, che utilizzano un edificio per incontri amorosi un po' fuori del comune, e che però mietono anche delle vittime a destra e a manca. E scoprendo una di queste vittime, Peter Van In comincia la sua indagine, che arriva fino alla fine, arriva fino a questi vertici vari del potere. Il setting, diciamo, lo sottosfondo di questi romanzi è Bruges, cioè Bruggia. E quindi è anche questo che tanti di noi conosciamo Bruges come città turistica, e infatti i turisti vanno e vengono anche sulle pagine di Peter Van Inn, perché ovviamente occupano in un certo senso la città e ne definiscono anche il volto, però ovviamente conosciamo anche questo suo volto dei locali, delle birrerie, delle fritte e dei locali poco conosciuti, o degli angoli comunque nascosti, non visti al pubblico turistico. È un'atmosfera che magari è più ci conduce verso più verso l'anima del posto. Quindi vi raccomando di fare conoscenza con questo autore, che qua è anche abbastanza, come dicevo, conosciuto, ha vinto vari premi di letteratura giallistica qua in Belgio, fra cui il prestigioso premio Poirot, perché qua non stiamo scherzando, cioè qua comunque c'è una grande cultura del giallo, quindi quando diciamo ha vinto premio Poirot non stiamo dicendo che ha vinto il piccolo premio giallistico del in ungherese si direbbe Mucan Röcsöge, che non esiste, quindi vi raccomando calorosamente di leggere in italiano, in francese, addentratevi anche un po' nel fiammingo, e vi auguro buona lettura e buona settimana. Grazie, è un ottimo suggerimento, è un modo magari per rispolverare questa bella lingua, che se ne dica. Giorgetto, sentivo scalpitare. Quale bella lingua? Quella olandese. Ah, quella olandese o quella fiamminga? Scusa. Eccola, ti ho messo già in crisi. Succede. Questa sera parliamo di mitteri europei, di culture balcaniche mediterranee, di olandese o fiamminga. Non lo so, faccio rispondere Yves, che è qui con noi. Io farei rispondere Yves. muove le dita da destra a sinistra rapidamente. Io non capisco proprio questo segnale cosa significa. Invece è un grandissimo personaggio, sappiamo, anche se lui non parla, sappiamo che ha fatto un bellissimo film che si chiama Fritzland, e di cui però non vuole parlare per il momento. Forse lo dobbiamo invitare appositamente un giorno, lo inviteremo appositamente a parlarci di film e di altre cose, del suo film e anche della cultura del Belgio, che per me sarebbe un'ottima idea, sarebbe un modo per veramente colmare lacune abbastanza vistose, almeno da parte mia, non parlo a nome di tutti. Su che cosa? Sulle lacune cinematografiche belghe. Non so la cultura cinematografica belga. Posso dire qualcosa? Assolutamente. Senza dire il nome nella persona, ho scoperto che ci sono persone, almeno una persona, che abita a Bruxelles da vari anni e non sa chi è Bruegel. Non ci posso credere. Infatti ero un po' scioccata, naturalmente non posso dire chi, però trovo abbastanza vergognoso. Questo sì, questi poi sono rudimenti di cultura che, insomma, quando si va in un altro paese si dovrebbero acquistare veramente rapidamente, come ci ricordava pure Simonetta prima. Vabbè, però insomma l'ignoranza c'è dovunque, sì. Possiamo perdonarlo anche se non sa chi era. Assolutamente, il perdono ci mancherebbe, questo tutto. Però insomma adesso che sappiamo, l'abbiamo scoperto, si deve informare chiunque tu sia, e sei all'ascolto, adesso devi informare che è Bruegel. Non solo, perché i mezzi a disposizione sono tantissimi, da un banale cellulare. Se sei davanti al computer scrivi Bruegel su Google e insomma già un'infarinatura, una minima idea. Potrei fare, tra l'altro nelle sale cinematografiche proprio Bruegel di questi tempi, quindi esatto. Se questa persona fosse pigra, insomma, che si recasse al cinema e potrà scoprirlo rapidamente. Hai il tempo, ahimè, corre veloce. Saluto Dani M. Regia. Buonasera a tutti. Ringrazio Fiordaliso per il suo ottimo suggerimento di lettura. Grazie, ci vediamo presto. Saluto i nostri ospiti. Rossella, che è stata qui con noi anche per la seconda parte della trasmissione, suo marito Yves, che è un esperto cinematografico, un grande esperto di cinema. Stasera, insomma, non riesco a dirne una giusta. Di cinofilo, così. Ecco, ti ringrazio, Saluto maker, filmmaker, yes. Saluto il nostro Giorgetto, sempre in splendida forma. Come stasera, insomma, sempre frizzanto. Ciao a tutti. Frizzanto? Cinofilo, frizzanto. Daniel, già l'abbiamo salutato. Mari Divi saluta, vi auguro un'ottima, splendida settimana e ovviamente arrivederci a martedì prossimo. Ciao! E noi salutiamo Mary Divi.